a qualche amico o qualche amica. Il lunedì si sa, è una giornata veramente difficile per tutti quanti perché inizia la settimana, però dai, una volta che è lunedì primo, quindi numero uno, e anche inizio dell'anno, non può che cominciare bene. Poi penso anche che sia vacanza, quindi diciamo che è un buon lunedì. Teniamoci la programmazione di Coxo Spaziale ogni lunedì, così lo sarà sempre anche per noi. Senti Stefano, proiettandoci nel futuro, non posso chiederti cosa hai combinato ieri sera, e non posso, però lo possiamo chiedere a tutti i nostri ascoltatori cosa hanno combinato ieri sera, e magari tu sai già gli eventi imperdibili di 31 dicembre 2023, chi lo passa a Bologna. No, anzi, io, il me del passato, non il me di oggi, non sapevo ancora che cosa avrebbe fatto a Capodanno, per cui non so niente di quello che succede né di quello che è successo, il che è abbastanza coxico. Però posso dirvi che, siccome poco tempo fa è uscito il nuovo disco di Marco Bello, ci ascoltiamo Sei Letti, che è bellissima. Sogno una astronauta che cade giù. Qui in camera sei latte, non c'è spazio per cadere giù, per cadere giù. Le persone possono buttarsi giù. Qui in camera sei latte, non c'è spazio per cadere giù, per cadere giù. Cerco un po' d'amore qui in camera, che tanta sei latte, non c'è spazio per cadere giù, per cadere giù. Qui in camera sto bene senza di lei, qui in camera sto bene senza di lei, qui in camera sto bene. Non c'è più spazio, non c'è spazio. C'ho sei letti sul pavimento. Non è per una questione di soldi, ma solo di me. Questione di spazio, di limitarsi. Questione di amori mai terminati. Quindi lo sai, non è per una questione di spazio, ma solo come poteva non mancare una canzone d'amore in questo lunedì 1 gennaio 2024. Chi lo sa se Marco Roma uscirà anche lui con un suo disco. Forse dovremo mettergli in fila diverse tracce che ci manda e invitarlo a fare una piccola compilation dei best of Marco Roma. Buongiorno, dedicata a te. Dedicato a te, che ascolti i raggi del sole scendere dentro di te. ti parlano, ti guidano, è un'ispirazione dedicata forse all'amore. Io sono Marco Roma, buongiorno! Grandissimo Marco Roma, sempre così, così carico, così entusiasta del risveglio, no? Chi lo sa se prima o poi passerà a dare le buonanotti. Per chi è stato a Bologna sicuramente avrà visto in Piazza Maggiore quella che è ormai una tradizione del vecchione che brucia, del vecchione d'artista che brucia. E per quest'anno 2023-2024 è toccato all'artista e fumettista Igor, che per l'occasione ha creato Morvo, che ricorda il cartooning dell'epoca d'oro statunitense degli anni 30 e 40. Che dici, sei già andato a vederlo qualche altro anno, Stefano? Ammetto di non aver mai passato Capodanno in Piazza Maggiore, cioè credo proprio mai. Una volta ci sono andato vicinissimo, ma poi l'ho schivata lo stesso. Forse quando ero bambino, ma francamente non mi ricordo. Detto questo, volevo dirti che il Marco Roma che abbiamo sentito è un Marco Roma antico, perché non sono stato in radio e non ho preso quello che Marco ci avrà spedito oggi, 1° gennaio, per cui vabbè, ve lo facciamo sentire in differita su www.coxspaziale.blogspot.com uno di questi giorni. State in tune. Shut my eyes, I don't wanna be privy to the look you're giving me when I tell you that I'm never gonna be the way you said I would. Shut my mouth, I don't wanna say words that'll make you go away, but I also wanna make you go away for good. I don't like it any more than you do. I don't like being the bad guy and breaking the bad news, 'cause I'm damned if I do and I'm damned if I don't say. Life was better before we were together, straight to your face. Oh, I'm damned if I do and I'm damned if I don't say. Life was better before, oh, we were together. And I'm gonna be, but I don't wanna be the woman that goes in history for leaving you, for being too good. No, I don't wanna sit in the dark going over it. Or maybe we could laugh it out, but what is there to joke about? I don't like it any more than you do. I don't like being the bad guy and breaking the bad news, 'cause I'm damned if I do and I'm damned if I don't. Life was better before we were together. era Before We Get Together di Margaret Glaspie. In realtà lei è uscita con un disco nuovo, ma mi piaceva di più suonare sto pezzo qua oggi. Tu invece, Mia, che cosa vorresti farci sentire? Visto che tanto, cioè, dimensioni credo che non ne avremo. Adesso magari più tardi controllo, ma non credo che ci saranno menzioni. E dunque, sì, non è che abbiamo tanto da raccontarci, per cui abbiamo tanta musica da ascoltare. Mettimi un bel pezzo di quelli che, di quelli tamarri che piacciono a te. Io ti propongo, Stefano, per questo lunedì 1 gennaio 2024, la canzone Gennaio di Diaframma, e la dedico a un amico che si chiama Roberto. Soldi li spesi in assoluta allegria, quella stessa con cui li avevo guadagnati. Ci voleva del fegato per ammettere che come erano entrati così erano usciti. un gran pezzo questo, grande. Io pensavo che quando hai detto diaframma, pensavo a Diodato e pensavo che l'ho incontrato l'altro giorno alla fiera, l'altro giorno, 2 mesi fa alla fiera di Torino. Mi hanno fatto una foto insieme a Deodato, sai che non mi ricordo. Comunque vabbè, e niente. Ma invece cosa c'è di bello da fare in questo 2024 secondo te? Cioè ci sono mostre da vedere? Io voglio andare a Parigi a vedere Mike Kelly. Però a parte questo, non lo so, cosa c'è da fare di bello in quest'anno? Tu che cosa farai quest'anno nel 2024? Cosa farò nel 2024? A gennaio a Bologna c'è Arte Fiera con i tantissimi eventi di Art City e ovviamente anche la nostra programmazione di ospiti che rifletterà su tutto il programma di appuntamenti e che vedrà un po' animare la città. E poi per il 2024 mi stai chiedendo i buoni propositi oppure i desideri forse anche mai realizzabili? Cox spaziale. Visto che poi ti è piaciuto gennaio di diaframma, allora ti propongo di mettere o come sigla o tra adesso dell'1 gennaio e la sigla anche il pezzo di diaframma che si intitola Labbra Blu. Sì, Labbra Blu magari la mettiamo come sigla finale, anche perché fra l'altro non so se te ne sei accorta, ma è uscita la classifica di radio degli album di Radio Città Fujiko, e se andate nella pagina che troverete, il cui link troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com, trovate appunto anche la classifica di Coxo Spaziale degli album preferiti da Coxo Spaziale, e dunque naturalmente il primo album che è super preferito da me, non da te, mia, ma è naturalmente Jenny Owen Youngs, che l'anno scorso nel 2023 è uscita con questo album che si chiama Avalanche, e il pezzo che ascoltiamo invece è proprio Avalanche. Like an avalanche, how else do I prove it out? Hai fatto da Dio, perché Jenny Owen Young, anche nel mio cuore, l'avrei votata anch'io al 100%, e Avalanche è un pezzone, è veramente un pezzone. Cos'altro possiamo raccontare in questo lunedì 1 gennaio indifferito dal passato? Ma dunque, secondo me possiamo raccontare che dovreste comprare il libro Immaginauti di Marco Dallari, che è bellissimo, lo sto finendo di leggere adesso, e lui l'abbiamo intervistato 2 o 3 settimane fa, e trovate naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com, trovate la registrazione della puntata. E poi, secondo me, potremmo dire a tutti quelli che ancora non hanno visto la mostra di Concetto Pozzati a Palazzo Fava di andarsela a vedere, perché dura fino a febbraio, però è una mostra da non mancare. Quelli che invece sono così fortunati da andare fino a Roma, io gli consiglio di andare a vedere la mostra di Emilio Prini, è una sorta di antologica molto importante di questo artista super concettuale, abbastanza, come si dice, non dico sconosciuto, ma comunque poco considerato ultimamente, e che è al Macro. È gratuita, fra l'altro, e credo che sia su fino a metà febbraio, forse fine marzo, non mi ricordo. Comunque anche quella è una mostra assolutamente da non mancare. Dopodiché lascio a te la prossima canzone. Fantastico, è vero, gli ultimi giorni per vedere Concetto Pozzati per chi è a Bologna. Come canzone te ne propongo due, scegliela tu. Completamente diverse l'una dall'altra. Cher, Believe, oppure Vedi Cara di Guccini. Porca puttana, che scelta che mi fai fare. Vabbè, non ho dubbi. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno, è che sono differente. Vedi cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento, che poi a terra ricadrà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già. Vedi cara, certe crisi sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Vedi cara, certi giorni sono un anno, certe frasi sono un niente che non serve più sentire. Vedi cara, le stagioni di sorrisi son denari che van spesi con dovuta proprietà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già. Non capisci quando cerco in una sera un mistero d'atmosfera che è difficile afferrare. Quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare. Quando sogno dietro a frasi di canzoni, dietro a libri e ad aquiloni, dietro a ciò che non sarà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già. Non rimpiango tutto quello che mi hai dato, che sono io che l'ho creato, e potrei rifarlo ora, anche se tutto il mio tempo con te non dimentico, perché questo tempo dura ancora. non cercare in un viso la ragione, in un nome la passione che lontano ora mi fa. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Tu sei molto, anche se non sei abbastanza, e non vedi la distanza che fra i miei pensieri e i tuoi. Tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco. Tu sei paga del tuo gioco ed hai già quello che vuoi. Io cerco ancora, e così non spaventarti quando senti allontanarmi. Fuggi il sogno, io resto qua. Sii contenta della parte che tu hai, ti do quello che mi dai. Chi ha la colpa non si sa, cerca dentro per capire quello che sento, per sentir che ciò che cerco non è il nuovo libertà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Vedi cara, che naturalmente dedichiamo a Marco Dall'Ari, augurandogli un fantastico 2024. Assolutamente sì, e auguriamo a tutti gli ascoltatori di Coxo Spaziale di Radio Città Fujiko un 2024 strepitoso, con anche questa domanda. Ovviamente non siamo in diretta, quindi non possiamo leggere al momento i messaggi che giungono, però potete scriverci un messaggino alla mail di Coxo Spaziale. Quali sono gli auguri migliori che si possono fare per un nuovo anno? Che cazzo di domanda è? Dai, che sarà un anno di merda come al solito, come è stato l'anno scorso e l'anno prima, anzi forse il 2020 ha vinto. Comunque vabbè. Ottimo, allora non farmi gli auguri quest'anno, perché sono degli auguri un po' scoraggianti, però no dai, esiste un bel messaggio di auguri da fare, non lo so, sono o auguri disperati o auguri così un po' frivoli, quindi in realtà è una bella domanda, io sono curiosa delle risposte che arriveranno alla tua casella di mail, che ricordiamo essere coxospaziale@gmail.com. Ah, ma poi non lo sai che una volta avevamo una rubrica fantastica che si chiamava I due minuti di Lolli. Adesso te la faccio sentire. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Madonna dei Tornelli è una frazione del comune di San Benedetto Val di Sembro. Si tratta di una località turistica degli Appennini famosa per la sua storia, seppur recente, e per il suo magnifico paesaggio. A fine gennaio la dirigenza dell'Università di Bologna aveva deciso di installare ed attivare un nuovo sistema di accesso alla biblioteca di Via Zamboni, che prevedeva si potesse entrare solo da una porta automatica che si apriva strisciando il badge dell'università. L'immagine di Maria col bambino dipinto su rame viene ogni anno portata in processione fino a Castel dell'Alpi, dove vi resta per 8 giorni, per poi tornare al santuario e alla festa dell'Ascensione. Il termine Tornelli si riferisce secondo di più alla presenza di carbonai che accendevano nei boschi piccoli fuochi per bruciare lentamente la legna ed ottenere così il carbone. Il 23 gennaio il collettivo universitario autonomo, un gruppo di studenti di estrema sinistra, aveva organizzato una protesta. La porta di emergenza della biblioteca era stata aperta per evitare il sistema dei fornelli e dunque un ingresso riservato. Poco prima di entrare in paese si trova il piccolo borgo di Fornello, sempre con riferimenti al fuoco, che pare fosse il primo centro abitato e risale al XVI secolo. Secondo altri deriverebbe non da Foculus, cioè piccolo focolare, ma dalla parola Fornax, in riferimento ad una fornace oppure un cratere. Sulla petizione lanciata su change.org, il collettivo dice: lì può firmare chiunque e a nome di più persone contemporaneamente. Si tratta dell'ennesimo fasullo stratagemma per screditare chi ha ragione da vendere. Già finito? Beh, direi fantastica questa rubrica Due minuti di Lolli, mi piace tantissimo e possiamo assolutamente riprenderla oppure inventarne una nuova che comunica sempre questa super dilatazione del tempo. Possiamo anche aggiungere ai nostri ascoltatori che ci ascoltano in questo lunedì 1 gennaio 2024, Coxo Spaziale Radio Città Fujiko, abbiamo, se non l'avete ancora vista, ancora qualche giorno a disposizione per vedere la mostra di Andrea Sgorski alla Fondazione MAST. Sempre di fotografia, anche c'è Vivian Maier al Palazzo Pallavicini, però questo fino a fine gennaio. In effetti Palazzo Pallavicini alle volte si dimentica di spedirmi i comunicati stampa, per cui non avevamo mai menzionato la mostra di Vivian Maier. Vabbè, che tanto lei è così famosa e poi c'è uno striscione in Via Indipendenza che ve la racconta, per cui penso che gli interessati ci saranno già stati. Comunque, se non l'avete ancora vista e la volete rivedere, la mostra è su fino al 28 gennaio, mentre invece se non avete visto Gursky al MAST vi dovete spicciare, perché la mostra finisce il 7 gennaio, fra pochissimo. Ecco, stasera mi piace così, con queste stelle appiccicate al cielo, la lama del coltello nascosta nello stivale e il tuo sorriso, 32 perle, così disse il ragazzo. Nella mia vita non ho mai avuto fame e non ricordo sete di acqua o di vino, ho sempre corso libero, felice come un cane, tra la campagna e la periferia, e chissà da dove venivano i miei, dalla Sicilia o dall'Ungheria, avevano occhi veloci come il vento, leggevano la musica, leggevano la musica nel firmamento. Rispose la ragazza, ho 13 anni, 32 perle nella notte, se potessi ti sposerei per avere dei figli con le scarpe rotte, girerebbero questa ed altre città, questa ed altre città, a costruire giostre e a vagabondare, ma adesso è tardi anche per chiacchierare. E due zingari stavano appoggiati alla notte, forse mano nella mano, e si tenevano negli occhi, aspettavano il sole del giorno dopo, senza guardare niente. Sull'autostrada accanto al campo le macchine passano velocemente e gli autotreni mangiano chilometri, sicuramente vanno molto lontano. Gli autisti si fermano e poi ripartono, dicono c'è nebbia, bisogna andare piano, si lasciano dietro, si lasciano dietro un sogno metropolitano. We'll be right back. proprio mentre suonava questa meravigliosa Due Zingari di De Gregori 1978, mi è arrivato un nuovo pezzo dalla fantastica Haro Suzuki, ovvero la sua band si chiama Stray Cats Party Tonight e il pezzo si intitola Wisdom Teeth. Ascoltiamolo. Fantastica Wisdom Teeth e fantastica Haro Suzuki. Direi che questa puntata all'insieme della musica è stata molto molto divertente e molto carina per questo lunedì 1 gennaio 2024 con un saluto dal passato, con un saluto dal 2023, visto che è registrata, ma noi del futuro ci saluto così. Buon anno Stefano, anzi buon anno io ero, io sarò Stefano W. Pasquini e a lunedì prossimo. E io ero Mia da Schio su Piei, comunque dai, ha fatto cagare sta puntata. Ma la solleviamo subito con una sigla che fa così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. C'è una ferita in fondo al cuore. Ciao Mia, buon Capodanno. Grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore, è bellissima. C'è un grande salto in fondo al cuore, prima deserto, adesso un'oasi. Miei cancelli, per favore, mi servono più. Viene lame dal mio cuore, viene cose. labbra era il sapore del mattino che hai inventato tu. Guarda adesso come piove sulle mie labbra blu. Guarda adesso come piove sui sentieri in fondo all'anima. Storie che non hanno odore, è la mia realtà. Vorrei dare un nuovo nome, nuova linfa a tutto quel che c'è. Ma ogni cosa è una ferita che mi ricorda te. You say no. The Jaguar black box recorder plot. She lost control in torrential rain. No, still rain. Was jailed for 5 years for the same death punishment. You say, the Supreme Court, an extinct in England more than 200 years ago, may soon be reintroduced to the skies over East Anglia. River conservation. Good job! Meetings with locals to determine whether they welcome the return of the distinctive bird, which is more than 2.5 meters. You say, Cockshot spaziale.